È bello incontrare brani poetici perché i poeti hanno una marcia in più, sanno toccare delle corde. Sentire questo brano di Geremia che comincia esattamente capitolo primo, versetto 4. Prima di formarti nel grembo materno, io ti conoscevo. Prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato. È bello, no? Sentirsi pensati. Quanto poi chi dice questo non è un poeta, ma è Dio stesso, tu ti accorgi che è una parola questa che ti riempie. Diverse volte a me è capitato di sentire persone che se non maledicevano quasi la loro nascita, che gettavano in faccia ai loro genitori: chi ti ha detto di mettermi al mondo? Oppure una ragazza che diceva: io sono nata per sbaglio, proprio letteralmente, i miei genitori non sono stati attenti e sono nata io. Oppure i miei genitori non mi aspettavano più, sono nato 20 anni dopo mio fratello. Pensare che ciascuno di noi è stato pensato, voluto da Dio, e questa è una parola. Sarebbe interessante approfondire questo e sapere che anche un bambino che viene con i barconi è stato pensato da Dio. Anche un bambino che nasce nel più profondo dell'Africa è stato pensato da Dio. Cari amici, abbiamo bisogno di sollevare il nostro sguardo a Dio. Tanto più Geremia, che è stato pensato e consacrato da Dio. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Noi sappiamo che profeta vuol dire il portavoce, l'altoparlante di Dio. E Geremia, di fronte a questo incarico, dice: ma io non sono capace. Quante volte anche noi ci sentiamo di rispondere così? Il sacerdote ti ha chiamato un giorno a fare la catechista. Io? Ma io non sono mica capace. Io ricordo il primo giorno che ero prete, entro in sacrestia, vedo un uomo, il mio catechista, aveva 50 anni. Dice: Don Ambrogio, hai già confessato qualcuno? Dice: no, confessi me. Io confessare te? Ma sei matto? Il mio catechista per una vita. E lui dice: ma adesso tu sei prete. E io con trepidazione mi sono seduto, mentre lui si è inginocchiato lì di fianco a me e ha cominciato a confessarsi. Ecco che cos'è un profeta, ecco che cos'è un sacerdote, ecco cos'è un'anima consacrata da Dio. Io non so parlare, sono giovane, non ho mai provato, non so come si fa, ma non aver paura di fronte a loro, dice Dio a Geremia, perché io sono con te per proteggerti. Se pensate, cari genitori, che anche voi siete profeti da parte di Dio. Dice: ma come, un figlio, come farò? Sarò capace di tirarlo su? Non sbaglierò? Dirò le parole giuste? Che bello leggere la parola di Dio, amici. Io metto le mie parole sulla tua bocca. Come abbiamo bisogno, cari amici, di credere alla vocazione che Dio ci ha dato. E come abbiamo bisogno di crederci con profondità, ma anche con umiltà, e metterci davanti al Signore e dire: che bello, Signore, che mi hai dato questa responsabilità, che bello che mi hai dato questo incarico. Ti prego, riempimi di Spirito Santo. affinché io possa annunciare al tuo popolo, Signore, la tua parola eterna, affinché io, mamma, zia, nonna, insegnante, sia capace di intervenire su coloro che tu mi hai affidato, ma solo lo Spirito Santo sarà capace di guidarmi. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.